Underground Solution è il posto. Non puoi crederci che ho preso la sprovvista. Creo l'ennesimo avamposto, anti riempi pista. Tu riempi la tua lista con gli amici del DJ. Out a posti VIP, rollo joint con i miei. Che pista black, ormai ci passano anche Britney. Mentre chi tiene a sta roba? Sclera tra logaritmi, troppi enigmi e poche royalty. Agli antipodi sugli organi, che invece di difenderci ci rendono più orfani. Drastico sui beats, strontato fino all'osso. Specie agli occhi di chi pensa di essere il più tosto. Ormai è una guerra di layout, psicodramma dei Friends. Scrivo barre, quantizzo spingendo sugli 80 Hz. Il suono qua ste ghetto blast e ciò mi basta farti muovere il collo sulla gran cassa. Qui la T, i beats e le rime, mentre il cuore pompa lava l'anima. Si districa tra le spine, faccio strada tra rovine. Jolly, falsi, saggi, istituzioni, zero cloni. Il nome della click memorizza i nomi. Troppi kings, pochi troni, troppe news, ma i neuroni te li bruci con cannoni che non reggi. Ciolloni, unisco i componenti. Non basta fare rime per capire come collegare menti. Già, le stesse menti che non scordano il buncia. Il messaggio è voluto, sei sul mio set pronto. Ciao. Tutto ciò che senti bello viene da sotto. I versi, i battiti, dal mio cuore al vostro. E guarda giù, senti, hai l'energia da sotto. Blocco le immagini che vedo con l'inchiostro. Non si punta qua a scalare la classifica. La realtà qua giù che vivo non semplifica. Tutto ciò che vedo e sentirai è la realtà. Lo sai, io non sogno vita da celebrity. Il mio rione è cool, così cool che c'è chi vive ancora sotto l'Eternit. Everything is everything. Grida ciò che meriti, perché se aspetti aiuti qua fai prima a fare 13. Sento grida che da sotto fan tremare i piani alti. Vivo in un paese in cui ti salvi solamente inganni, in cui l'apparire schiaccia l'essere in altri. Cambi identità, parlo di giorni e non di anni qua. Underground Solution è il posto. Non sapevi ed ora lo sai. Se volevi il suono piuttosto, aumenta il cazzo di volume del wifi. Supero limiti ed il flow mi fa da benza. E bello è che non devo dimostrarti se resto all'altezza. Ho l'attinenza di stare nel mio, fuori dal puro gossip. L'invidia la lascia chi non ha di meglio da proporvi. Tutti i soci, tutti i goppi, stringo mani e dopo scopri che hanno scopi ben precisi. Procurarti solo in doppi, troppi croppi in gola, troppi, troppa presunzione limita. Non puoi dare consigli se la vita non sai viverla. Fuori dall'igla, quattro mori senza pende. Pelle grossa quanto basta per nuotar controcorrente. Contro i luoghi comuni, contro chi non lo sente. Contro chi parla bambera, parla e non dice niente. Tutto ciò che senti bello viene da sotto. I versi, i battiti, dal mio cuore al vostro. E guarda giù, sentirai l'energia da sotto. Blocco le immagini, Underground Solution. Non si punta a scalare la classifica. La realtà qua giù che vivo non semplifica. Tutto ciò che vedo e sentirai è la realtà messa sotto gli highlights. Tutto ciò che senti bello viene da sotto. I versi, i battiti, dal mio cuore al vostro. E guarda giù, sentirai l'energia da sotto. Blocco le immagini che vedo con l'inchiostro. Non si punta qua a scalare la classifica. La realtà qua giù che vivo non semplifica. Tutto ciò che vedo e sentirai è la realtà messa sotto gli highlights.